Perfetto giorno di Simone Spezia. Confindustria alza le stime del PIL e avverte: l'occupazione giovanile tallone d'Achille del paese. L'assassinio di Noemi, il killer rischia il linciaggio e accusa lei, voleva farmi sterminare la mia famiglia. Chikungunya, lo stop alle donazioni per oltre 1 milione di romani, mancano almeno 200 sacche di sangue. Champions, sconfitto il Napoli, questa sera Lazio, Milan e Atalanta impegnate in Europa League. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, sempre 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, c'è anche la pagina Facebook di Radio 24, così come la nostra pagina Facebook, quella di Effetto Giorno, dalle quali andiamo in diretta video e come sempre potete scriverci e commentare anche là se credete e se volete. In apertura dunque ci occupiamo di economia con le indicazioni che sono arrivate oggi dal Centro Studi di Confindustria ed indicano un PIL in forte ripresa quest'anno. Andrea Viali, buongiorno. Sì, è così Simone, buongiorno. Confindustria in effetti rivede alla rialzo le stime di crescita della nostra economia. Secondo il Centro Studi di Via dell'Astronomia, il PIL italiano si attesterà all'1,5% quest'anno e all'1,3% nel 2018. Quanto all'occupazione, invece, sono stati recuperati 1 milione di posti di lavoro, ma c'è ancora molto da fare, soprattutto per i giovani, avverte Confindustria, che parla in questo caso di vera e propria emergenza. I livelli di occupazione giovanile troppo bassi rappresentano un tallone di Achille che sta danneggiando la nostra economia, ma anche la nostra società, perché la fuga dei giovani all'estero soltanto nel 2015 è costata ad esempio nel complesso 14 miliardi di euro, fa sapere il Centro Studi degli Industriali. E naturalmente c'è anche la questione giovani. Tra gli interventi sollecitati dal presidente di Confindustria Boccia in vista della prossima legge di bilancio, sentiamo le sue parole. Beh, a nostro avviso un piano di inclusione giovani che possa aiutare i giovani a essere inclusi nel mondo del lavoro, quindi c'è una questione di priorità temporale e un'attenzione evidentemente alla detassazione sui premi di produzione, perché aiuterebbe le nostre imprese allo scambio salario-produttività, che è una delle grandi questioni paese. Così Boccia, nonostante i segnali di ripresa, sarebbe sbagliato abbassare la guardia in questo momento, ha avvertito invece il ministro dell'economia Padoan commentando il rapporto del Centro Studi di Confindustria, ma sentiamo cosa ha detto, poi la linea può tornare allo studio. Dal punto di osservazione del policy maker, il rischio più serio, sicuramente un rischio molto serio, è quello di pensare che il peggio sia passato e che quindi meno o poco resti da fare. A maggior ragione questo rischio è grave in una fase di chiusura di legislatura. Grazie ad Andrea Viali per questo aggiornamento. E a proposito di economia, sono stati diffusi questa mattina i dati dell'Istat sull'inflazione. Il tasso di inflazione risale all'1,2% ad agosto 2017, dall'1,1% di luglio. Nei dati definitivi rallenta invece la crescita dei prezzi del cosiddetto carrello della spesa, ossia i beni a maggiore frequenza di acquisto, crescono dello 0,1% su base mensile e dello 0,6% su base annua. Passiamo alla cronaca che ci porta innanzitutto in Puglia per gli aggiornamenti sull'omicidio di Noemi, la sedicenne che era scomparsa il 3 settembre scorso. Adriana Fracchia, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, buongiorno a tutti gli ascoltatori. L'ho ammazzata perché voleva sterminare la mia famiglia e poi saremmo fuggiti a Milano. Come arma avrebbe usato un coltello che lei aveva con sé. Ho reagito di fronte alla sua ostinazione, ero innamoratissimo. Ma ha detto anche l'ho uccisa per gelosia perché aveva troppi amici. Insomma, resta ancora da accertare, dietro le versioni contraddittorie del fidanzato 17enne reo confesso, il vero movente della morte di Noemi, la sedicenne scomparsa, come dicevi, il 3 settembre scorso, il cui corpo è stato ritrovato ieri sotto un cumulo di pietre nelle campagne leccesi. È stato lo stesso 17enne ad indicare agli inquirenti il posto dove trovarla dopo il lungo interrogatorio finito nella notte. Un interrogatorio che si è concluso col fermo del ragazzo con le accuse di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Il 17enne, che peraltro uscendo dalla caserma dei carabinieri ha rischiato anche un linciaggio della folla, a cui ha rivolto uno sprezzante saluto e dei gestacci, e ora si trova nell'istituto penale per minorenni di Lecce. Descritto da tutti come persona dall'indole violenta, tanto che in passato era stato anche denunciato dalla mamma di Noemi, per gli psichiatri del centro di salute mentale di Gagliano del Capo, che in un paio di occasioni hanno provato l'accesso per la cura del 17enne, certamente, hanno commentato, non era un agnello. L'autopsia ora sul corpo della 16enne Noemi, che si terrà forse sabato o al massimo lunedì a Lecce, chiarirà meglio le circostanze della morte. In chiusura ricordo peraltro che è indagato per sequestro di persone e concorso in occultamento di cadavere anche il padre 41enne del ragazzo. E per il momento è tutto. Grazie anche ad Adriana Fracchia per questo aggiornamento su questa vicenda. Torneremo più avanti, non specificatamente sulla cronaca, ma per cercare di capire come ancora una volta sia stato possibile che una persona denunciata per comportamenti violenti non abbia avuto alcuna misura cautelare e abbia potuto colpire in questo modo. Veniamo alla vicenda della chikungunya, il morbo che si sta diffondendo a Roma a causa delle zanzare. I casi sono 17, è probabile che salgano ancora. Adesso si riflette soprattutto, Laura Bettini, buongiorno, sulla questione del sangue che viene a mancare dalle donazioni, no? Precisamente Simone, a Roma e nel Lazio, come dicevi, i casi accertati sono 17. La sindaca Raggi ha ordinato la disinfestazione delle zone in cui si sono verificati questi casi. L'assessore all'ambiente Montanari ha respinto le critiche, ha detto non c'è stato alcun ritardo. Dopo la segnalazione dell'ASL abbiamo solo aspettato che smettesse di piovere, altrimenti il trattamento non sarebbe stato efficace. Ma la questione è quella del sangue in questo momento. Il Centro Nazionale Sangue ha disposto il blocco delle donazioni nella ASL 2 del comune di Roma e nel comune di Anzio, e al sangue dei donatori che hanno soggiornato in queste aree verrà applicata una quarantena di 5 giorni. Ma come sappiamo Roma ha molto bisogno di sangue, perché nella capitale non si curano solo i romani, ma ci sono anche molte persone che vengono da altre regioni, quindi c'è molti casi da affrontare. Come si farà? Si potrà attingere alle riserve delle grandi emergenze, ha detto il Centro Nazionale Sangue. Si ridurranno le scorte negli ospedali, ma ovviamente si fa appello ai donatori. Alberto Argentoni è il presidente dell'Associazione Nazionale Donatori, l'AVIS. Il Centro Nazionale di Sangue stima che ci voglia un apporto da extra regione o da extra Roma, quindi anche dalle altre realtà del Lazio, per di almeno 200-250 sacche di globuli rossi al giorno. Quindi si andrà a sollecitare, diciamo, l'attenzione dei donatori in questo periodo? Assolutamente. Adesso dovremo fare delle chiamate straordinarie, ci stiamo attrezzando per questo. E con questo sistema, insomma, comunque si può proseguire per diverso tempo. Bisognerà assolutamente farlo. Quindi non è una questione di volontà, Simone, bisogna proseguire. Poi so che tornerai sull'argomento. Sì, intanto ti ringrazio per questo aggiornamento. Laura, ci torneremo, lo faremo con quello che è il responsabile dell'AVIS, in questo caso del Lazio, e magari cercheremo di farci dare anche qualche indicazione pratica per gli ascoltatori, donatori di sangue che volessero contribuire a questo problema che sta vivendo la capitale in questo momento. L'immigrazione. Credo non ci siano motivi per prolungare i controlli alle frontiere interne, così il commissario Dimitris Avramopoulos, entrando al Consiglio Affari Interni Europeo, commenta la richiesta di Francia, Germania, Danimarca, Austria e Norvegia di creare la possibilità appunto di estendere i controlli e quindi di andare ancora in deroga al Trattato di Schengen per minaccia terroristica. Immediata la replica del ministro dell'interno tedesco De Maizière: da qui a novembre, ossia quando scadrà la proroga, la deroga a Schengen, c'è tempo. Intanto si delinea quella che potrebbe essere l'azione in Libia per il contenimento appunto degli arrivi di migranti. Scuole, strade, ospedali, ma anche un centro equestre. La partita sulla scacchiera libica è molto più grande dell'intesa sui flussi migratori. Dopo gli accordi raggiunti da Minniti in Libia, l'ondata di migranti sembra essersi arrestata. Dall'inizio dell'anno c'è stato un calo del 21% degli sbarchi rispetto allo stesso periodo del 2016. Ma l'immigrazione è solo una parte della posta in ballo. La promessa di bloccare i traffici di persone dei 12 sindaci delle città meridionali della Libia è la prova di buona volontà per procedere verso la concessione di finanziamenti europei e di ricostruzione. Una buona occasione per le aziende italiane. Una corsa già cominciata con l'assegnazione al consorzio italiano Eneas dell'appalto per il nuovo aeroporto di Tripoli. ora il ministro Minniti ha trasferito alla presidenza di turno dell'Unione e al commissario Avramopoulos il prospetto dei progetti presentati dai 12 sindaci. Riterrei utile, scrive Minniti, che queste proposte vengano esaminate dalla Commissione e poi finanziate. Si parla di infrastrutture, scuole, ospedali, ma anche della costruzione del grande centro equestre a Misurata e di un centro di accoglienza a Bani Walid per ben 17.000 persone. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E a proposito di immigrazione, non solo, quello che sta animando lo scontro interno al Partito Democratico in queste ore è il cosiddetto Ius Soli, perché poi nella legge in realtà lo Ius Soli vero e proprio non è previsto, si arricchisce appunto di un nuovo fronte di scontro all'interno del Partito Democratico, acceso dal ministro Delrio. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, dopo la protesta di Graziano Delrio e la posizione di Matteo Renzi, ovvero portare lo Ius Soli ad approvazione, interviene anche il premier Paolo Gentiloni. Resto alle parole che ho detto alcune settimane fa, siamo ancora in estate, l'impegno che abbiamo descritto rimane, è un lavoro da fare, precisa il Presidente del Consiglio, ma non sovrapponiamo il tema in modo automatico degli sbarchi, dell'immigrazione al tema della cittadinanza. Ci sono dei punti di contatto, precisa Gentiloni, ma stiamo parlando di argomenti abbastanza diversi. Per il presidente del PD Matteo Orfini, lo Ius Soli si può approvare solo se il governo però pone la questione di fiducia, ma il partito, dice Orfini, ha fatto benissimo a rinviare il tema al Senato, è buon senso per non far naufragare il disegno di legge in aula. Il problema politico è però il no di AP, senza i centristi non c'è maggioranza, ma AP ha appena faticosamente concluso l'alleanza con il PD in Sicilia, che prefigura anche un possibile accordo per le politiche, una posizione piuttosto difficile, quindi questo no per Angelino Alfano. A te, Simone. E grazie dunque anche ad Elisabetta Fiorito per questo aggiornamento. Abbiamo parlato molto di immigrati, di profughi e di rifugiati. Ebbene, ci sono notizie che arrivano proprio in questi minuti da quella che sta diventando un'intera popolazione di profughi e di rifugiati. Ci riferiamo ai Rohingya, la minoranza musulmana del Bangladesh. Secondo le ultime stime diffuse in queste ore dall'UNHCR, il numero di Rohingya che stanno scappando dal Myanmar, ossia dall'ex Birmania, stanno arrivando appunto in Bangladesh, è arrivata a 400.000 dal 25 agosto e altre migliaia stanno arrivando ogni giorno. Secondo le stime diffuse invece questa mattina dall'UNICEF, il 60% di loro sono bambini. Notizie che arrivano anche dalla Corea e dalla crisi coreana. Il presidente sudcoreano Moon Jae ha escluso la possibilità che armamenti nucleari possano essere schierati nel suo paese, mettendo in guardia anche che, sul fatto che un'ipotesi contraria potrebbe portare ad una corsa alle armi nucleari nel nord-est asiatico. C'erano state da questo punto di vista delle richieste proprio da parte dell'opposizione e del resto del Parlamento perché la Corea del Sud di questa crisi si dotasse proprio di degli armamenti nucleari. Veniamo allo sport e alla giornata sportiva. Ci ha appena raggiunto in studio Carlo Genta per parlare, Carlo, sicuramente della sconfitta del Napoli di ieri e poi l'Europa League in arrivo. Carlo, ciao. Ciao Simone, buongiorno a tutti. Sì, Europa League vedremo, ma insomma in questo momento in tono minore, anche se c'è l'Atalanta che sfida un grande avversario come il Tottenham. Però ciò che ci interessa è quello che è successo nella due giorni di Champions League, in cui abbiamo preso come, diciamo, come si dice a Milano, anche se tu non sei di Milano, botte e gol. La Juventus, tre schiaffi dal Barcellona, 0-0 la Roma per miracolo. E ieri sera il Napoli, che ha perso 2-1 in casa dello Shakhtar Donetsk, che è una signora squadra. Il Napoli non perdeva da molto tempo in Champions, dalla partita con il Real Madrid a marzo. Si possono concedere attenuanti generiche, però necessita una riflessione su questa squadra e su quanto abbiamo visto ieri sera. Ne abbiamo parlato ieri, Carlo. L'Italbasket, come prevedibile, non ce l'ha fatta. Ma sai, ieri sera è stata una partita strana. In certi tratti, non so se l'hai vista, sembra, o chi l'ha vista, sembrava di vedere giocare una squadra di basket contro una squadra di mini basket, questione di stazza fisica. E chi ha giocato a pallacanestro sa benissimo quanto sia difficile anche fisicamente difendere contro avversari molto più grandi, molto più grossi. Io non ho niente da rimproverare personalmente alla nostra squadra, Ettore Messina anche. E è finita qui la sua avventura ed è un peccato, perché era l'uomo, era il condottiero, non poteva fare di più con questa squadra. A tratti abbiamo visto giocare un centro di 1,98 che era il nostro contro un centro di 1,21 che era il loro. 2,21 stiamo parlando dai 2 metri in su dai 2 metri in su. E quindi cosa vuoi dire a questa Italia che è arrivata alle soglie del paradiso e lì si è fermata in maniera fisiologica, perché, ma non senza stare a fare troppi discorsi sui settori giovanili, sì, sul ricambio generazionale, queste cose qui, perché questa generazione di fenomeni non ce l'avevamo mai avuta. L'abbiamo avuta ora, non porta a casa nulla. Io spero che Bellinelli non abbandoni la nazionale, perché è la nostra prima punta, e poi gli altri si adegueranno, rientreranno, eccetera. Onora la Serbia di Saša Đorđević, perché è più forte di quanto siamo noi. D'altra parte ha vinto meno di un anno fa un argento olimpico, sì, quindi eravamo sfavoriti, non proprio, sì, ed è andata come doveva andare. Sì. Allora Carlo, ti ritroviamo come sempre alle 14 in tutti i convocati. Noi adesso ci fermiamo, traffico, ci ritroviamo subito dopo. Iniziamo il nostro giro per l'Italia partendo dalla vicenda che è avvenuta in Puglia, dall'uccisione di Noemi, chiedendoci soprattutto dal punto di vista giudiziario se non si potesse fare di più, prevedere una misura cautelare per il ragazzo che poi ha ucciso, per l'assassino di Noemi. A tra poco. Sei in ritardo! Ma ho comprato le pizze Roncadin! Non sei in ritardo! Roncadin! Nel banco freezer! Vi presenta... Effetto giorno! Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, sempre 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp e la nostra pagina Facebook, dalla quale, così come la pagina Facebook di Radio 24, dalle quali andiamo anche in diretta video, e quindi oltre a sentirci, se volete ci potete vedere, potete commentare anche là. Iniziamo dunque il nostro giro per l'Italia e iniziamo proprio dalla provincia di Lecce, dove è avvenuto l'assassinio di Noemi, ragazza di 16 anni, scomparsa il 3 settembre scorso. Ieri il suo fidanzato, 17 anni, ha confessato. Ci scrive un ascoltatore, visto come è avvenuto l'omicidio, ci chiede se il ragazzo di 17 anni fosse italiano o straniero. Poco importa, perché è una storia come tante ne abbiamo viste tra le coppie miste italiani-stranieri, tra le coppie di stranieri, tra le coppie di italiani, e l'abbiamo viste troppo spesso, in tutta sincerità. Comunque, visto che ci siamo, era italiano e i genitori italiani sono anche apparsi in qualche intervista. Però il tema che ci preme non è questo, non è la nazionalità del ragazzo, la nazionalità dell'assassino. Quello che ci preme è altro, è come si può prevenire tutto questo. Allora, apprendiamo dalle cronache di queste ore che la madre di Noemi aveva portato delle sollecitazioni, addirittura delle vere e proprie denunce. Ne era nato un procedimento per violenza privata nei confronti di questo ragazzo, e poi uno civile che avrebbe dovuto avere come obiettivo la verifica delle condizioni familiari nelle quali viveva questo ragazzo, che era in una condizione psicologica, come si è raccontato più volte in queste ore, in una situazione psicologica grave. Il tema qual è? Il tema è che non è scattata alcuna misura cautelare, dove non si intende il carcere, ma si intende anche solamente il divieto di avvicinamento alla ragazza. Domenico Musicco è legale dell'associazione Valore Donna, che è un'associazione che si occupa proprio di questo, di violenza sulle donne. Musicco, buongiorno, benvenuto. Sì, buongiorno, mi scuso se ci sono dei rumori, ma sono sulla Freccia Rossa, comunque spero che... Speriamo soprattutto che regga la linea. Musicco, come mai in questi casi... non è il primo caso che vediamo, no? Nel quale non scatta una misura cautelare che ci aspettiamo che scatti. Ma diciamo che i casi che commentiamo, che commentate anche oggi, sono cronache di morte annunciate, nel senso che comunque si ripetono con una certa cadenza, e c'è un femminicidio ogni 3 giorni, quest'anno pare che ci sia addirittura un'impennata nel numero dei femminicidi. E quindi vuol dire che il sistema non funziona, quindi non funziona proprio come diceva lei l'aspetto preventivo, nel senso che quando ci sono già delle violenze conclamate non scattano i provvedimenti protettivi della ragazza o della donna che poi viene stalkerizzata o oggetto di violenza. Quindi su questo la legge è carente, diciamo manca poi vabbè il solito problema della certezza della pena, ma è carente proprio l'aspetto preventivo. Io ho proposto con Valentina Vezzali a luglio una norma sul braccialetto elettronico obbligatorio in questi casi, ma pare che sia molto poco recepita in Parlamento, non all'ordine del giorno, nel senso che ci sono priorità più importanti, anche se questa qui è una priorità sicuramente importante. I braccialetti elettronici in Italia sono praticamente introvabili, tra l'altro, quindi se uno fa una ricerca e trova pochi sono costosissimi, e quindi bisogna fare un cambio di mentalità, una virata a 360 gradi proprio per proteggere situazioni come quelle di Noemi. Questo ragazzo andava osservato con un braccialetto elettronico fin dalla dai primi segni di violenza. C'è però Musico, mi permette una cosa, c'è un ascoltatore che ci scrive via WhatsApp, dice perché il sistema non funziona, un'ascoltatrice per meglio dire, perché ancora oggi un collega di 45 anni di età mi ha detto però lei ancora gli parlava, come a dire c'è un problema di cultura anche tra i giudici, anche tra le forze dell'ordine, che non è ancora penetrata fino in fondo su quanto sia problematica la questione. Allora, sicuramente le forze dell'ordine possono fare di più di quello che fanno attualmente e non sottovalutare mai questo tipo di denunce che c'erano state. Il fatto che la ragazza, magari molto giovane, accetti il famoso ultimo incontro, purtroppo è un fatto frequente, ma che comunque non... E purtroppo lo stiamo perdendo Domenico Musicco, che è il legale dell'associazione Valore Donna. Vedremo se riusciremo a ripescarlo, ma sinceramente ne dubito, come avete sentito e come ci ha annunciato all'inizio della trasmissione. Purtroppo è su un Frecciarossa e i Frecciarossa vanno così. Avremo modo, e temo purtroppo, di tornare su questo argomento. No, abbiamo ripescato Musicco? No, non l'abbiamo ripescato. Va bene così. Del resto, chi ha viaggiato tra Roma e Milano sui Frecciarossa sa benissimo che anche la velocità, la sola velocità crea problemi alla connessione. Cambiamo decisamente argomento, perché c'è un uomo che è un po' sulle prime pagine di tutti i giornali in queste ore. Si tratta di Luigi Carozzi, che è il sindaco di Pontina. E siamo in provincia di Bergamo. Carozzi, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Perché? Perché avete fatto delle strisce rosa per i parcheggi. Queste strisce rosa che cosa sono? Sono le strisce che consentono, che riservano il parcheggio per le donne incinte. Allora, avete fatto queste strisce rosa e avete messo nel regolamento comunale, almeno inizialmente, se non sbaglio avete già cambiato idea, che era riservato alle cittadine europee, se non erro, ed eterosessuali, è così? È così, però mi permetto di partire con una replica. Allora, innanzitutto stiamo parlando di un regolamento che non è attuativo. Questo regolamento che non è attuativo cosa identifica? Che ad oggi le strisce rosa, i parcheggi rosa a Pontida non esistono, non ci sono e non possono essere utilizzate da nessuno. E quindi abbiamo fatto un primo passaggio creando un regolamento. Sì. Ora. Vabbè, però il regolamento c'è, scusi, sindaco, no? Sì, esatto. Questo regolamento c'è. Non è attuativo e questo ci permette di andare a inserire delle piccole modifiche al regolamento, delle piccole modifiche che comunque sono sostanziali. Il sottoscritto, in qualità di sindaco, ha fatto un passaggio su tutta la giunta. Ho deciso che entro breve tempo apporteremo delle piccole modifiche sostanziali, come dicevo prima. Sì, e cioè? Questa, diciamo che la modifica migliore che ho avuto modo di portare a conoscenza dei miei assessori e di tutta la giunta è quella di far sì che questi parcheggi rosa che creeremo presumibilmente entro il mese di novembre siano utilizzati, come ho detto ieri sera a tanti suoi colleghi, da tutte le mamme del mondo, senza mettere nessun tipo di distinzione. Questa apertura nostra ci permette di avere un riscontro positivo, questa apertura nostra è possibile appunto perché questo regolamento non è attuativo. Sì. Quindi, ma come vi è venuto in mente di fare il primo regolamento, sindaco? Come dicevo a tanti suoi colleghi, l'attività di un'amministrazione è sempre, diciamo così, a una velocità stratosferica, 100 all'ora. ci è scappato qualche piccolo errorino? Vuoi che nessuno... Ma come errorino? Ma questo non è un errorino, scusi sindaco, questa è una scelta politica, no? Vuoi che nessuno riesca a fare un'attività politica senza errori? Quindi il nostro volere è sistemare questa piccola realtà, sistemare con questa piccola modifica il regolamento per l'utilizzo del parcheggi rosa. Mm. Questo è quello che dovrò fare. Sì. Quindi tutto torna a posto. Tutto torna a posto. Non ci saranno parcheggi discriminatori a Pontida, in sostanza. Mm. Anzi, offriremo un qualcosa in più alle ragazze madri di Pontida. Cosa offriamo? E questo lo possiamo fare solo per le ragazze. Ragazze madri di qualsiasi nazionalità? Esatto. Ah, tutte quindi. Anche... Tutte le ragazze e tutte le mamme del mondo. A cosa offriamo alle cittadine di Pontida? Avranno la possibilità, semplicemente facendo un piccolo passaggio all'interno dell'ufficio della polizia locale, sì, faremo avere loro un pass, il pass esposto davanti all'autovettura, permetterà di utilizzare in qualsiasi ora del giorno, sempre e comunque, il parcheggio rosa da parte delle nostre mamme. Sì. Il resto delle mamme arriverà a Pontida, parcheggerà tranquillamente, senza avere la necessità di esporre sindaco, mi scusi, io devo capire chi è, qual è la manina. Allora. No, però lei mi deve dire qual è la manina che ha messo in quel regolamento quella cosa là, che i parcheggi rosa erano riservati solo a donne incinta eterosessuali e comunitarie. Me lo deve dire, di chi era questa manina? Ma non c'è una manina, ci sono tante manone, diciamo così, persone che lavorano all'interno della nostra amministrazione. È stata condivisa per intero, c'è stata questa volontà mia di far nascere questa modifica sostanziale, è stata accettata da tutti, è stata ben vista da tutti. La porteremo avanti e il sottoscritto farà un passaggio, perché un passaggio positivo, offriamo un qualcosa in più per le mamme che arrivano fuori, offriamo qualcosa in più per le mamme di Pontida. Allora, grazie al sindaco Luigi Carozzi, che però, devo essere sincero, non ha ancora sciolto il mio dubbio. Abbiamo in linea già Adelaide Pierucci, che è una collega giornalista del Messaggero. Adelaide, buongiorno, benvenuta, ciao. Buongiorno. Ciao, per parlare di una vicenda particolare. Abbiamo assistito sul finire dell'estate allo sgombero di quel palazzo in Piazza Indipendenza, dove c'erano molti immigrati, dove c'erano i comitati per la casa. Ebbene, collegata parzialmente a questa vicenda, c'è un processo che è in corso in questo momento e che è iniziato ieri. È un processo nei confronti di una donna che guidava i comitati per la casa e che è accusata di estorsione. Il concetto era questo: io ti do la casa, è stata denunciata da un cittadino marocchino che ha fatto partire tutta la vicenda, io ti do la casa e tu mi paghi, che ne so, 2.000 euro l'anno. Ci sono anche episodi non proprio chiari che rasentano la violenza e intercettazioni molto pesanti. Però Adelaide, allora io qua devo dare spazio alla borsa, ti chiedo di aspettare 5-6 minuti se puoi, e ci ritroviamo subito dopo e me la racconti questa cosa, ok? Va bene. Perfetto, a tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia e sempre 349-238-6666 per sms e messaggi su WhatsApp e diretta video sulla pagina Facebook di Radio 24. I nostri titoli: Confindustria ha alzato le stime del PIL e avvertito, l'occupazione giovanile è il tallone d'Achille d'Italia. L'assassinio di Noemi, il killer rischia il linciaggio e accusa lei, voleva farmi sterminare la mia famiglia. Chikungunya stoppa le donazioni per oltre 1 milione di romani, mancano almeno 200 sacche. Champions, sconfitto il Napoli, questa sera Lazio, Milan e Atalanta impegnate in Europa League, perde anche l'Italia del basket contro la Serbia. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo con Effetto Giorno e con la prosecuzione del nostro giro per l'Italia. Un ascoltatore che ha sentito nei titoli che parlavamo del rischio di linciaggio per il fidanzato che ha ucciso Noemi, ci chiede che cosa vuol dire linciaggio. Dice: scusate l'ignoranza, non so che cosa vuol dire linciaggio. facciamo anche questo servizio se necessario. Il linciaggio è il momento nel quale un assembramento di persone tenta di uccidere o di colpire a morte una persona ritenuta responsabile di un crimine, come è avvenuto in questo caso ieri. Allora, si diceva della vicenda romana, e siamo sempre in linea con Adelaide Pierucci del Messaggero. Vicenda romana, eccoci di nuovo Adelaide. Vicenda romana che ha a che fare con questo processo, e ne parliamo perché si è aperto ieri questo processo e perché tanto abbiamo parlato di quello che è successo in Piazza Indipendenza, e che ha a che fare con quella che si sospetta essere un'estorsione da parte dei comitati per la casa nei confronti delle persone che poi vanno ad occupare queste abitazioni, no? Sì, diciamo che parlavamo del caso di una, c'è stata un'ennesima denuncia da parte di un cittadino marocchino che si era ritrovato indagato per l'occupazione di una scuola a Roma e sotto interrogatorio ha raccontato la sua verità, una verità che ha portato a giudizio per estorsione Maria Giuseppa Vitale, detta Pina, una dei leader del comitato cittadino per la lotta per la casa. Una donna che ha già un procedimento aperto sempre per estorsione, per l'occupazione di altri stabili. In questo caso è un processo in cui ci sono 22 indagati, 14 dei quali appunto accusati proprio di associazione a delinquere finalizzata all'estorsione. È un tema che è tornato di attualità, anche se questo, diciamo, questi casi che vengono imputati alla Vitale sono, insomma, accaduti qualche anno fa e sono, sì, a giudizio, stanno partendo, insomma, a Piazzale Clodio i processi in questo momento. Perché sono state ritrovate? Proprio perché all'interno del palazzo di Via Cortatone, che è un palazzo a 9 piani che sta proprio di fronte alla CSM in Piazza dell'Indipendenza a Roma, e dove praticamente sono stati trovati dei ticket, delle ricevute in cui, insomma, c'è scritto un importo, sono scritti dei giorni, ci sono scritti dei piani, sono scritti delle stanze e sembrano appunto delle ricevute, come se fossero state appunto rilasciate. Come se ci fosse una gestione centrale, per così dire, di tutte queste case occupate, e per queste case occupate come se si riscuotesse una sorta di affitto, e che però i magistrati interpretano come estorsione, ho capito bene? Allora, nel caso di Via Cortatone veramente l'indagine è proprio agli albori, nel senso che per ora il fascicolo è aperto per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, però ci sono altre due nuove indagini qui a Roma parallele, dove appunto si sospetta questo che appunto hai ricostruito tu, che stiamo ricostruendo, cioè il sospetto che molte di queste occupazioni poi sono finalizzate comunque a dei guadagni. Le persone indagate si difendono dicendo che questa è un'autogestione, servono dei soldi per far fronte alle spese della luce, dell'acqua, per fare spese di piccola manutenzione anche all'interno. E il problema è che sono pochi. Cioè, ci sono delle denunce, ecco, che invece dicono un po' tutt'altro, come questa di Hamid. Hamid dice: io stavo a Roma da un paio d'anni, volevo ricongiungere la mia famiglia che era in Marocco, mia moglie e 5 figli, e quindi ho cominciato a chiedere come poteva avere una casa, insomma, ovviamente a costi bassi perché non aveva un lavoro fisso. E quindi è stato spedito in questa via della Caccia a Roma, in quartiere popolare a Centocelle, dove appunto una donna che conosce là, che appunto le avevano indicato, che è poi una collaboratrice della Vitale, e gli dice: sì, noi abbiamo questo sistema per cui noi lavoriamo per il comune e praticamente possiamo anche reperire una casa. Questo però è il racconto di Hamid, va precisato. Naturalmente va precisato, e andremo a vedere come va a finire il processo. Intanto io, Adelaide, ti ringrazio, volevamo semplicemente accendere un riflettore su questa vicenda, perché poi, come vedete, le verità sono sempre un po' più sfumate di come tendiamo a raccontarle anche noi stessi della stampa a volte. Saluto Fulvio Vicere, che preside l'Avis per la Regione Lazio. Buongiorno, benvenuto. Grazie a voi. Che è l'associazione dei donatori di sangue, per delle informazioni su quanto sangue pensate che possa mancare a Roma dopo la vicenda di questo virus, e soprattutto dà qualche indicazione pratica anche ai nostri ascoltatori su come fare per donare per Roma, per così dire. Ma diciamo che intanto grazie dell'attenzione sull'argomento e un'informazione. Roma è comunque una città cronica da oltre i 30 anni, per cui su Roma grava una carenza di 48.000 unità di emazie l'anno, che comunque vengono organizzate e risolto il problema con la provenienza di unità di sangue da fuori regione, dalle province del Lazio e dalla provincia di Roma, per cui il sistema trasfusionale per fortuna è un sistema rete, non è che Roma è abbandonata a se stessa, anzi c'è un'attenzione mai come adesso sul problema sangue della città di Roma, perché proprio come diceva lei è un problema di una grandissima città e le istituzioni stanno già provvedendo a emanare delle circolari operative e organizzative per quanto riguarda la raccolta del sangue sul territorio. E domani c'è una riunione al Centro Nazionale Sangue con tutti i presidenti d'Italia delle associazioni di donatori per vedere come si può spingere la donazione fuori questo problema per convogliarle proprio sulla città. Quindi per il momento, come dire, indicazioni pratiche potrebbero arrivare domani, in sostanza, mi sta dicendo? Ma già le indicazioni operative sono già state emanate dal Centro Nazionale Sangue e i servizi trasfusionali hanno delle direttive, per cui già da ieri sera c'è una direttiva ufficiale. Noi come associazione stiamo cercando di coinvolgere quei territori non compresi nel territorio dell'esclusione per spingerli a donare di più per aiutare in più questa città. La ringrazio, grazie Vicere Fulvio Vicere dell'Avis della Regione Lazio per essere stato con noi. Traffico Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.